Questa è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. FC Barcelona. It is FC Barcelona. Club Atlético de Madrid. Club Atlético de Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Borussia Dortmund. Against Borussia. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Chelsea FC. They will play Chelsea. Manchester United FC. Manchester United FC. FC Bayern München. The last one, which was the first one last year. Olympique Lyonnais. Olympique Lyonnais. Juventus. Against Juventus, the Italian champion, three times winner of this competition. Amici miei, questa è la cronaca, vi abbiamo fatto sentire le voci del sorteggio che si è appena concluso. 800240024 è il vostro numero verde. Roberto Scaltritti in regia, Alessandro Jacopini in redazione. Pierluigi Pardo, come va? Siamo pieni di fazzoletti per asciugare le lacrime del Napoli. Raffaele Auriemma, ciao. Vabbè, spargete pure il sale sulla ferita, sì. Bravi, grazie. Vabbè. Grazie. Auriemmo, quanto tempo, eh? Quanto vorrei che ci vediamo? Dieci tra minuti. Tra un po' ancora sarà, tra un po' ancora sarà. Esatto. E Benedetto Ferrara, che oggi ha avuto anche l'incombenza di firmare le pagelle su Repubblica della sconfitta, la sua Fiorentina con la Juventus. Come sta la nonna? No, siamo qui, guarda, siamo su Ponte Santa Trinita, guardiamo Ponte Vecchio e diciamo vabbè, in fondo ci resta una città meravigliosa e che ti devo dire, nella vita c'è di peggio, dai. Sì. Pierluigi, però delusione, eh? Delusione viola, Fiorentina che insomma è stata messa in scacco dalla Juventus, diciamolo, e il Napoli che a me insomma, ha fatto sanguinare il cuore, perché secondo me questo ottavo di finale si poteva passare. Cioè guardi l'andata, il ritorno, una montagna di gol sbagliati, si doveva passare questo quarto di finale. Sì, guarda, su Fiorentina-Juve onestamente posso dirti poco, ho letto tutto il possibile, ho visto tutto il guardabile, ma chiaramente stavo preparando la partita a San Paolo, quindi mi è mancata un po' la percezione in diretta. Così, da quello che ho letto, da quello che ho capito, poi sulla Fiorentina mi sembra che la differenza l'abbiano fatta il campione in assoluto, nel senso che poi c'è un gesto tecnico, che il calcio è uno sport di episodi, non è uno sport di ripetizione, non è uno sport statistico, è uno sport di prodezze individuali anche isolate che possono cambiare nella partita secca il corso degli eventi, e questo è quello che è successo. Sul Napoli invece sono molto più preparato e ti posso dire che rosichiamo a Roma, perché veramente non soltanto a Roma, perché veramente è stata una grande occasione persa, secondo me, contro una squadra che in questo momento è abbastanza battibile. Guarda, io da questo punto immagino una finale Juventus-Porto, non so perché. Porto che giocherà col Siviglia, Zalkmaar, Benfica, Basilea-Valencia, questi gli altri accoppiamenti. Raffaele, dove ha sbagliato il Napoli? Le critiche al Napoli quali sono? La domanda è per me? Sì, per te Raffaele Auriemma. Ma le critiche sono quelle di sempre. Il Napoli è una squadra che non sa proteggersi. È successo anche ieri. Ha sprecato tanto in attacco, può capitare, un po' per stanchezza, un po' perché magari l'avversario stava, però se finisce gol alla prima ripartenza vuol dire. Ciao, fatica a sentirti Raffaele, prova a spostarti. Però posso dirti una cosa? Dimmi. Sto per iscrivere anch'io al gruppo misto, perché con tutto l'amore per Benitez, la simpatia del gruppo misto è preso in giro Auriemma a un certo punto, perché ha cominciato a rimpiangere Mazzarri, e devo dire che insomma io non condivido questo in assoluto, però penso che insomma, siamo a metà marzo e un bilancio si debba fare. Ha ragione Benitez quando dice che ci sono ancora cose importanti, il Napoli può arrivare secondo in classifica e può vincere la Coppa Italia. Però io, da un allenatore come Benitez, qui lo dico, che il giorno è oggi, il 21 marzo, comincia la primavera, insomma, mi aspettavo di più. Sì, per adesso come il voto complessivo è 6 e mezzo. Una fisionomia di squadra, sì. Un atteggiamento diverso. Questa è una squadra che si aggrappa a delle grandi potenze individuali di alcuni giocatori, che ha provato a fare calcio soprattutto all'inizio, nelle primissime giornate di campionato, con un atteggiamento veramente molto forte, pieno di personalità, che ultimamente però quanto tanto è che non gioca bene, che non gioca bene bene una partita al Napoli, al di là del fatto che la vinca o che la perda, è parecchio, mi sembra. Sì. Sì, è parecchio tempo. Poi Raffaele ci spiegherà anche che ci facevano Caione e Hamsik in panchina, perché questo non me lo domando, così come domanda Benedetto Ferrara che cosa ci facesse Gomez fuori nel finale di questa partita. Ma allora, insomma, è stata una partita abbastanza particolare, molto tattica, no? Insomma, chi l'ha visto, si sono a centrocampo un po' annullati Vidal, Vargas, Pogba, Aquilani, Cuadrado sistemato per contenere Asamoah. Alla fine, voglio dire, chiaramente ha perso più la Fiorentina, perché il Cuadrado, che non può saltare l'uomo in avanti, crea insomma un po' di imbarazzo in fase offensiva. Io credo che, insomma, la Juventus ha giocato in difesa molto bene, ma soprattutto credo che la partita sia stata decisa chiaramente da una giocata di un campione come Pirlo, e anche però dagli errori della Fiorentina al primo tempo. Sì, certo. Ilicic e Gomez, soprattutto Ilicic, ha avuto un pallone incredibile in una partita così, ripeto, tattica, che quando hai l'occasione alla fine la devi mettere dentro. Questa volta, invertendo le cose rispetto all'andata, Montella, sapendo di avere Gomez come dire, con un tempo a tempo determinato, cioè non ha le gambe in 90 minuti, sperava in una Fiorentina che andasse in gol nella prima parte, quando lui era più fresco. Infatti Gomez ha giocato i primi 15-20 minuti alla grande, poi piano piano si è spento. Sì. Naturalmente, col senno di poi, forse un Gomez spento valeva più di un Matri. Beh sì, o quantomeno insieme a un Matri, una partita in cui sai che poi possono succedere queste cose. O ci si può domandare se la staffetta non poteva essere magari inversa, prima Matri e poi Gomez. Magari sono dettagli, però in Coppa i dettagli contano. Raffaele Aremma dice, vabbè, abbiamo sbagliato tanti gol, può capitare, ma in Coppa non può capitare, se no vai a casa. Strade e poi ne parliamo. Parte Pirlo, col destro! Pirlo la mette all'incrocio, la Juve in vantaggio, ancora le punizioni di Pirlo, come 4 giorni fa, Juve avanti a 20 dalla fine. Convocati. Stiamo recuperando Raffaele Auriemma, caro Pierluigi. Intanto io confermo quanto ho detto prima, e cioè è vero che, come diceva lui, i gol si possono sbagliare, ma quando ne sbagli così tanti in Coppa paghi, e questo è matematico, no? E continuo a domandarmi cosa ci facessero Careone e Hamsik in panchina ieri. Su Hamsik si può aprire un lungo dibattito, ne abbiamo parlato anche con Benitez l'altro giorno da Napoli, è un giocatore in involuzione, in crisi mentale, psicologica, cioè le turbe, ma Careone è quello che fino adesso aveva giocato di più, è anche quello che riusciva a segnare con una certa regolarità. In panchina perché? Perché c'è il turnover, forse anche perché quello che ha detto l'altro giorno Benitez in conferenza stampa risponde al vero. E questo sarebbe l'aspetto più triste per come io vedo il calcio, cioè che la lotta per il secondo posto fosse una priorità rispetto all'Europa League. E mi sembra che faccia parte di una visione molto italiana del pensare sempre al domani invece di godersi il presente. Prendere un allenatore internazionale per poi avere una visione italiana, Raffaele. No, non lo so se è così, però quella dichiarazione l'altro giorno mi ha lasciato un po' perplesso. Fammi sentire Auriemma cosa ne pensa. No, ma io concordo con Pierluigi, sta guardando la Champions Rafa Benitez, e ha pure ragione, perché l'unico modo per trattenere i grandi calciatori è per prenderne altri, anche se non so se attraverso il terzo posto il Napoli riuscirà a fare il mercato che ha in mente, perché se prima non si sa la tua collocazione nella stagione futura all'interno dell'Europa, io faccio fatica a immaginare uno come Mascherano, per dire un nome di quelli che viaggiano molto, venire a Napoli nella prospettiva magari di perdere anche il preliminare e restare in Europa League. Quindi è questo il motivo sul quale il Napoli deve ragionare molto, oltre a crescere sia nella personalità, perché non puoi subire un gol dal porto e poi fermarti pensando che sei fuori, né tantomeno puoi subire le ripartenze malauguratamente tu non vai in vantaggio e prendi un gol, il Napoli è finito come squadra. Sì. Posso dire una cosa tronfia? I preliminari si vincono. Cioè, secondo me il Napoli, col ranking comunque che ha, con la tu non sei mascherano però, Pierluigi. No, ma io non sono mascherano, però voglio dire che invece noi siamo stati scottati negli ultimi anni da una serie di preliminari giocati da, per esempio, dall'Udinese, che è una squadra che merita solo applausi, no? Però che chiaramente faceva un mercato, magari vendeva i giocatori durante l'estate. Questa cosa probabilmente ci ha un po' rovinato la percezione. Insomma, noi abbiamo delle squadre che hanno un ranking di un certo tipo, che va a terminare la testa di serie, e quello è. E quindi legittimano anche certi tipi di investimenti, diciamo, a scatola, scatola chiusa, no? Hai ragione. Che ci possa essere la cautela di aspettare, va bene. Ma la percezione, il panico da terzo posto, sì, cioè mi sembra una malattia tutta italiana, il panico da terzo posto. Hai ragione. Posto è una cosa bellissima, poi certo meglio, è ovvio, però più che altro fai vacanze corte, devi cominciare a allenarti prima, insomma comporta una serie di ci sono i mondiali, bravo, una serie di cose che poi puoi pagare durante la stagione. Credo non sia tanto questa psicosi da doppia partita. Invece adesso devo far parlare Benedetto Ferrara bene della Juventus, sarò cattivo, ma mi tocca, Benedetto, perché stavolta l'ha meritato. Io non voglio, ma figuriamo, certo, io credo che, voglio dire, ci sono state quattro sfide tra campionato e Coppa tra Juventus e Fiorentina. Devo dire, la Juventus ne ha vinte due, ne ha pareggiata una e ne ha persa un'altra. Direi che la Fiorentina ha tenuto testa comunque la Juventus, che la Juventus sia una grande squadra, non c'è bisogno che lo chiediate a me, è ovvio, e ripeto, la partita poi alla fine è stata decisa da il colpo di classe e la magia di un giocatore, perché era una partita bloccata. La Fiorentina aveva avuto le sue occasioni, la Juventus non è che ne avesse avute tante, era una partita diciamo che è stata aperta finché a un certo punto ne è precipitato tutto, con un'espulsione o una punizione, con una squadra che non aveva mentalmente più e forse anche fisicamente, quindi sicuramente brava Juventus, però la Fiorentina è uscita a testa alta, e questo non è soltanto il giudizio di uno che la vive un po' anche col cuore, ma insomma mi sembra abbastanza evidente. Credo che poi quello che ha fregato un po' tutti è avere questo scontro agli ottavi di finale, diciamo, se lo poteva capitare, però forse questa è un po' una piccola ingiustizia, perché sono due belle squadre, insomma. Ma le coppe, viene detto, sono meravigliosamente ingiuste, è il loro bello. Intanto oggi io voglio far rosicare fino in fondo Pardo, vedo già oltre il vetro due splendide donne che dopo mi raggiungeranno, giusto? No, scusa, posso dire una cosa soltanto, aggiungere, no, avete detto giustamente che non so chi l'ha detto, che Napoli può vincere la Coppa Italia, vorrei aggiungere che può farlo anche la Fiorentina, c'è anche la Fiorentina in finale Coppa Italia. Certo, sarà la finale delle grandi deluse? Certo, ma poi la stagione della Fiorentina deve essere vista, questo non è un alibi, è una realtà oggettiva, la stagione della Fiorentina deve essere vista alla luce, non c'è indiscutibile, c'è Rossi, di una sfiga di due giocatori, di due giocatori fondamentali. Dove stai? Ti rompono tutti e due. Pardo, dove sei? Va via la voce. Dove stai? Esci di lì. Dove sei? Sei ancora in pizzeria da ieri? No. Alessandro Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno. Una battuta e una considerazione. Prego. Velocissima su quello che ha appena detto Benedetto Ferrara. La battuta è che, siccome con arbitri stranieri ieri è stato espulso Gonzalo Rodriguez, sacrosanto, due munizioni, sì, invece nella stessa partita con arbitri italiani era stato graziato Aquilani, la Fiorentina ha vinto 4-2, e siccome con arbitri stranieri la Juventus è l'unica italiana anche quest'anno rimasta in Europa, allora non vorrei dover dire che con arbitri stranieri la Juventus avrebbe 20-25 punti in campionato di vantaggio, perché mi cadrebbe un alibi fantastico, insomma, sarebbe questo giusto. Sì. E la battuta, e la considerazione invece più seria, è che non mi sembra giusto dire che sia... cioè che sia finito 1-0 solo per il colpo di un campione, perché anche in 11 contro 11 nel secondo tempo, secondo me, la partita l'aveva già presa in mano la Juventus. Ma hai avuto la sensazione che la Juventus abbia controllato, Alessandro, abbia controllato questa partita anche nel primo tempo? Non so se ha controllato, se l'ha fatta nel primo tempo, è stata più equilibrata e sicuramente non era uno 0-0 giusto, ma non so se per calo della Fiorentina o per scelta della Juventus nel primo tempo. Nel secondo invece era chiaramente già, sì, la Juventus ha fatto la partita tutto il secondo tempo. Questo non sicuro. È che è arrivato un gol dal nulla da Pirlo. No, ma questo sono d'accordo. Tu hai calma, hai detto benissimo all'inizio, è Benedetto Ferrara che mi sembra abbia fatto un'analisi un po' così. Vabbè, Benedetto Ferrara fa l'analisi che gli pare, cioè voglio dire, bisogna considerare anche il cuore. Possiamo ricordare, scusa, ma non stiamo qui a fare sicuramente a difendere esclusivamente con le bandiere in mano. Diciamo anche che Pizarro è uscito all'inizio del secondo tempo e questo ha cambiato molto nella dinamica del gioco della Fiorentina, cioè anche questo va detto. Sì, giusto, per la cronaca. Ragazzi, io vi chiedo ancora, prima di salutare Auriemma e Benedetto Ferrara, mentre parlo me lo tengo, alziamo gli occhi verso le altre. Barcellona, chi è caduto? Ah, Barcellona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea, quindi Ibrahimovic contro Mourinho, e questa è la cosa che più mi affascina nel sorteggio di oggi. Real Madrid, Borussia Dortmund, United, Bayern. Sembrava tennis, Carlo, sembrava tennis. Cioè? Che voglio dire, premesso che le teste di serie non ci sono e non c'erano paletti e teste di serie in questo sorteggio, però insomma, chi sono le due più forti? Penso siamo tutti abbastanza d'accordo, sì, no? Bayern e Real Madrid. Chi hanno beccato le due outsider, che poi sono outsider fino a un certo punto ovviamente, che sono Borussia Dortmund e Manchester United, ma che sembrano quelle un pochino più in affanno rispetto alle altre. Qual è, poi magari metti Barcellona, no? Come terza squadra, mm-hmm, non fosse altro che per la sua storia. Poi ci sono le due squadre di mezzo, che sono Paris Saint-Germain e Chelsea, che si sfidano. Barcellona affronta l'Atletico Madrid, che è l'outsider. Insomma, per me sembra 1 contro 8, 2 contro 7, 3 contro 6, 4 contro 5. Hai ragione. Sono bellissime, sono tutte per me la più bella è Paris Saint-Germain Chelsea, proprio perché mi sembra la più equilibrata, sì, delle quattro. Ma perché da questa esce il vero underdog, no? Cioè quella che davvero può andare a contendere il titolo a Real e Bayern. Raffaele, come la vedi? Sì, concordo pienamente. Per me il Bayern continua a vincere anche quest'anno, perché vedo una squadra molto solida che non ha subito contraccolpi dal cambio dell'allenatore e anche della filosofia, quindi è destinata a vincere ancora tanto. Però io non mi fido neanche del Barcellona, per cui, uh-huh, è vero, apparentemente è la terza, è l'outsider, però bisogna sempre tenerla in prima fila, perché con Messi, Neymar e tutti gli altri, sì, può succedere sempre qualcosa di particolare. Sta lì di default. Benedetto? Mi devi rifare la domanda, perché si era aperto. No, ti chiedevo un commento. Immagino parliate della Champions. Sorteggio di Champions, li sai, no? Barcellona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea, Real Borussia e United Bayern. Ma insomma, io vedo, insomma, sono d'accordo con il mio collega, insomma, vedo il Bayern la squadra più la forte. Squadra, sì, insomma, è quella più completa probabilmente, sì, però insomma, c'è sempre la variabile Barcellona. Però diciamo che il Bayern secondo me resta favorito. Grazie Raffaele Auriemma, Benedetto Ferrara, Pierluigi Stagni. Ciao, grazie a voi. Ciao Carlo, ciao. Fermo, piantato come un palo. Tutti convocati. The day of wine and roses, laugh and run away like a child at play through the meadowland toward a closing door, a door marked nevermore. Sì, lasciamo fino alle 15, non c'è problema. Frank Sinatra, Days of Wine and Roses. Pardon? Eccolo. Ho fatto male a non essere qui oggi, eh? Lo so, ma guarda, già sto rosicando. Quindi di non mettere il dito alla piaga, lo so benissimo. Chi sei? Sono con due splendide donne. Con due splendide donne. Una delle quali è Adua Villa, che ha scritto questo libro, Vino Rosso e Tacco 12. Senza lei. Vino Rosso e Tacco 12. Pardon della Damas. che è nota appassionata di calcio. Sì, pensavo di aver studiato in questi anni per capire cosa fosse il fuorigioco, ma ieri mi hanno detto che è cambiato qualcosa. Non è così. L'altra invece neanche gli arbitri, no, gli arbitri. Grazie, mi consoli. Gli arbitri non l'hanno capito, convengo con te io. E questa è il presidente o la presidentessa del Siena, Valentina Mezzaroma. Ciao, buonasera, Valentina. Buon pomeriggio. Ciao Pier, come stai? Bene, tu? Tutto bene, tesoro. Entusiasmo, ottimismo. Certo, dai, bisogna sempre essere entusiasti, pensare positivo. Poi io stasera, insomma, c'ho un bel impegno, tu lo sai. Certo, stasera, ricordiamo, chi non lo sapesse, ricordalo tu. Andiamo nella Tana del Lupo Irpino, ad Avellino, a giocarcela alle 21, Avellino-Siena. Quindi bella gara, invito tutti a tifare per il Siena, ovviamente. E poi Palermo-Siena, se non sbaglio, no? E poi sì, poi Palermo-Siena abbiamo l'infrasettimanale, martedì 25. Pierluigi Pardo già è a Napoli, quindi farà un salto ad Avellino. Tanto ormai abitino. Ormai sono stato annesso al regno delle due Sicilie, sto benissimo, stasera vado ad Avellino a vedere Avellino. Sì. No, grande. Sai questo vino rosso Tacco 12 che ha scritto la Dovilla è una specie di febbre a 90, i tifosi, ogni tifoso calcio sa di cosa sto parlando. Ovvio. A Dovilla molto meglio di Nicormi, ma molto. Però è un libro in cui al posto del calcio c'è il vino e al posto dei giocatori di vario tipo ci sono uomini di vario tipo, non tutti fuori classe. Dico giusto? No, guarda, non tutti fuori classe. Lei trova più vini fuori classe che uomini fuori classe, questo è il suo problema. Senti, un rosso per la Fiorentina, intesa come bistecca. Ah, ok, vabbè. Ah, iniziamo così. Allora, ok. Eppure te però, Allora, visto che i toscani... Pardo Rosi ancora di più che c'ha fame, io lo so. A quest'ora poi... Stranamente oggi ho mangiato, sì. Allora, visto che loro sono molto campanilisti, quindi i toscani amano rimanere in regione, gli regaliamo un vino toscano, quindi io direi andiamo con il Sangiovese Grosso, comunque il classico, come dire, come se fosse una cravatta regimental, bene o male ce l'abbiamo voi maschi forse, non lo so, un paio di jeans, ecco, facciamo così, un paio di jeans forse nell'armadio, meglio. Un paio di jeans nell'armadio, sicuramente un Chianti classico, quindi così è un linguaggio universale. Senti Valentina, invece la Fiorentina eliminata, intesa come squadra di calcio, ha tolto qualcosa alla Toscana? No, assolutamente. La Fiorentina, voglio dire, aveva fatto già dall'inizio di quest'anno, sembra parte un gran campionato. Ieri sera si è comportata benissimo, ma davanti alle punizioni di Pirlo che vogliamo fare? Cioè, d'altronde non ha fatto la maledetta. Ieri non ho visto la partita, però mi hanno detto che ha tirato praticamente un missile terraria, giusto? Velocità di 106 km orari all'incirca. Sai che prima, cos'è Pirlo? Un Brunello, un Fasticaia? Che cos'è Adua? Guarda, è perché ha longevità. Se posso usare questo termine, anzianotto, diciamo. Ecco, ha longevità, quindi si esprime nei diversi anni. Un vino con le spalle larghe, un vino grande come appunto il Brunello che tu dici te, è un vino che da giovane dà risultati, però dà quei risultati ancora non così eleganti. Magari nel tempo è un vino che invece riesce a tirare fuori classe, quella che voi chiamate classe, c'è anche nel vino, quindi qui ci siamo. E quindi può essere paragonato a un Brunello se vogliamo. Senti, ma stamattina m'han detto di una statistica che poi non sono riuscito a verificare, è vero che Pirlo ha segnato due volte su punizione con la maglia del Milan e ne ha fatti 11 con la Juventus, ti risulta Pier? Mi sembra troppo, 11 a 2 mi sembra troppo, sicuramente negli ultimi anni è aumentato tra l'altro è a meno 3 credo il campionato da Mihajlovic come numero di punizioni realizzate, al secondo posto della classifica degli specialisti su punizione dopo Siniša Mihajlović, quindi vuol dire che è su livelli veramente, veramente incredibili. E è chiaro evidentemente che è un giocatore che sta appunto, come si diceva giustamente, sta invecchiando bene, anzi sta migliorando. E poi sai, le punizioni sono anche un'arte che si allena con l'impegno, col talento, ma anche con la fiducia. Cioè più segni e più i portieri avversari hanno paura e più tu hai fiducia e più hai coraggio nel cercare la botta. Sarebbe interessante sentire Pirlo proprio su questo argomento. Lui tratta nel libro, non so se avete letto il libro, scusa se mi intrometto, però lui parla della famosa maledetta e della tecnica che aveva affinato piano piano. E, insomma, è scientifico il calcolo della maledetta per quanto riguarda Pirlo, e rimarrà secondo me solo per lui ovviamente. Sì, perché non basta sapere la teoria, poi bisogna, passare alla pratica. Cassano, che vino è? Cassano, che vino è? Cassano. Gli hanno dato un premio. Allora, Cassano, che vino è? Non lo so, però io credo, cioè mi piace pensare a Cassano, che è uno di quelli che quando sceglie il vino, lo sceglie vedendo la colonna di destra, cioè quella dei prezzi, e quindi lui dice, guarda, magari questo non lo so che cos'è, però questo qua... Ecco, mi piace di pensare a un Cassano così, come dire, questo non lo so che cos'è, ma tu portamelo, perché... Basta che sia tanto. Qualche anno fa gli hanno dato un premio in Piemonte su un vino bianco che si chiama Arneis, no? Sì, sì, certo. Che è un vino appunto famoso per essere un po' matto, ed è un premio che danno ogni anno. Un anno lo danno a Luciano Di Pizzetto, insomma, lo danno a dei personaggi che sono, diciamo così, un po' particolari, un po' frizzantini, un po'. E quindi ci fu questa scena straordinaria in Piemonte con un cappello da Arneis. Ci sta, se mi dici così ci sta, ok. Valentina Mezzonova, grandissima per competenza, passione, professionalità e fiuto calcistico. Complimenti alla stagione del Siena, vi aspetto in Serie A. Il giusto valore e posizione dell'Inter a metà classifica senza grandissimi voli in alto, scrive Sara. Grazie Sara. Ammiratrice. Grazie mille Luca. Sara. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, no, avevo sentito Pardo parlare, diciamo, di un resoconto della stagione del Napoli. Secondo me il voto è 6,5 per lei? Ma direi sì, più o meno 6,5 in effetti. Anche se io sono d'accordo, nel senso, sì, è confermare, perché si parla anche di Mazzarri. Sentivo parlare che si rimpiangeva anche Mazzarri, ma cioè per me Benitez dovrebbe essere confermato, e solo che vorrei sapere che, cioè, se Benitez ha avuto la sua impronta nel mercato estivo lo scorso, e quale sarà la sua impronta nel mercato estivo futuro, cioè non so, credo di sì, insomma, la quantità di spagnoli che sono arrivati è stata in qualche modo quantomeno avallata da lui. Callejon, che tra l'altro una scelta azzeccatissima, assolutamente voluta. No, ma io adesso non è che sono improvvisamente passato dall'opposizione su Benitez è una persona fantastica. Sei gruppo misto, che non è opposizione. No, Benitez è una persona fantastica, che in carriera ha dimostrato tante cose. Devo dire che poi, siccome lo vediamo spesso, ovviamente è una grande squadra, è difficile ovviamente vederlo giocare bene, e questo è un dato di fatto. Io mi aspettavo ieri sera che ci potesse essere un salto di qualità, perché Benitez da sempre queste partite di Coppa comunque le gestisce con una esperienza, con una personalità, dà una fiducia alla squadra, una carica di un certo tipo, che ieri secondo me è mancata, al di là degli episodi. Poi è ovvio che il Napoli poteva anche passare il turno, è stata una sfida equilibrata, ma per me il Napoli è più forte del Porto, quindi è un'occasione persa, insomma. E poi alla fine fai 2+2 e vedi che veramente forse l'ultima partita veramente bella del Napoli dal punto di vista del gioco, secondo me, è quella contro il Milan. Sì. Aiutata anche, insomma, diciamo, un atteggiamento abbastanza sbagliato di Seda in quella gara. Poi per il resto bisogna fare grandi. Con il Milan è facile, Pier, giocano bene tutti col Milan. Cioè, in questo momento è l'avversario che chiunque vorrebbe affrontare. Senti, tu prima hai usato Cassano, tu sai che tu c'hai la fissa di Cassano, io quella di Balotelli. Se Balotelli fosse un vino, Adua? Allora, se Balotelli fosse un Francia vino... Corta, no? Strano. Sì, ma non lo so, perché secondo me lui si butterebbe su etichette straniere, non so perché, lo immagino... Non il vino nel cartone, comunque. No, non credo proprio. Credo che a lui, non so, sarebbe più attratto più dall'etichetta. Lui, ecco, lo sceglierebbe più da un'etichetta che possa avere dei colori un po' più forti, un po' sgargianti, un po', cioè quella cresta mi trash, fa trash, insomma. Come fosse io non vorrei dire trash, però ci sono dei mercati in cui appunto delle etichette vengono costruite ad hoc proprio per un pubblico che magari non conosce il prodotto, però è così attratto da un'etichetta un po', no? Come quelli che, se vedono una con i jeans e una con la minigonna, sicuramente vanno a, come dire, a rompere le scatole a quella con la minigonna. Ecco, quindi un'etichetta può avere anche una gonzo, il marchio da questo punto di vista è di una prevedibilità che Madonna, veramente, guarda, veramente. Sorprendeteci. Insomma, parlo a nome della categoria, assolutamente prevedibili, basici, semplici, vabbè, insomma, no, basici, anche le copertine dei libri sono, cioè, voglio dire, poi alla fine questo aspetto di marketing che vale sicuramente per il vino, vale anche per cose appunto nobili come il vino, ma anche i libri. Sappiamo che è importante scegliere la copertina giusta, insomma, e quindi alla fine ci sta, insomma, tutto è commercio, tristemente. Anche il tuo telefono avrebbe bisogno di una revisione? Ma posso dire, io sono fermo da 35 minuti e ho praticamente tutte le tacche nel centro di Napoli, un posto meraviglioso, però stai lì ancora 5 minuti, non ti muove. Valentina Mezzaroma, che giocatore vorresti per il Siena nei tuoi sogni? Chi è? Pardo, è caduto un'altra volta? È caduto. Ma io non lo sopporto più. Nei miei sogni. Adesso vorrei proprio. Che giocatore vuoi? Adesso vorrei proprio Antonio Cassano. Ma dai, veramente? Sì. Ma perché vuoi bene a Pardo? No, no, no, no, guarda, se Prandelli non lo porta al mondiale, secondo me fa un errore gravissimo. Voto Antonio. No, Cassano ha avuto secondo me una rinascita. Sicuramente la cosa positiva è quella di stare in una società equilibrata come il Parma e di stare anche in un posto molto tranquillo come Parma. Lui le grosse piazze non gli vanno bene. Quindi mi dispiace per Auriemma, che ho visto la trasmissione. Sì. Noi di Map Napoli non ci deve andare Cassano. No. Il meglio lo deve dare nelle piazze, diciamo. Non ha bisogno di quiete e tranquillità. Di quiete e tranquillità. Insomma. Poi secondo me la moglie è uno che lo mette parecchio a posto. Però ecco, un Cassano mi piace. Mi piacerebbe molto averlo adesso nel Siena, anche perché siamo un po' carenti in attacco, quindi sì. Bisogno di Pardo, hai sentito? Ma dov'è? È andato via un'altra volta, è cascato. C'è Pierluigi? Sono qui. Ma sei qui dove? Cioè, Valentina qui, Mezzaroma prende Cassano, hai capito? Ho capito. Vuole che Cassano? Dici? Che ti piace come nel nostro modulo? Ma secondo me sì, poi arriva lì e aspetta a fare il contradaiolo, cioè secondo me... Sicuro, a Siena lui spacca sicuro, Pier. No, però mi sembra, a parte le battute, insomma, siccome poi l'altro giorno lui ha giocato molto su questa roba, quello che mi risulta è che lui sia veramente bene. Poi alla fine non si può avere tutto nella vita, no? Ci sono momenti in cui hai voglia di adrenalina, momenti in cui hai voglia di tranquillità. A me sembra che in questo momento, insomma, questa tranquillità sia un dono, una benedizione, come e quindi ma penso che faccia tenersela. Tali un attimo ancora, abbiamo il traffico. Intanto, ragazzi, state attenti perché i nostri ascoltatori vi guardano su Google, eh. Ti hanno già cercato su Google. Hanno googolato, eccetera, eccetera. Strade. Sono anch'io leggero, perché è prima la cicciobella, adesso un pochino meno. Tutti convocati. Sempre a Duaville, Valentina Mezzaroma qui con me, Pardo al telefono da Napoli, Thomas da Bologna che scrive: tra una con la mini e una con i jeans si va da quella con un bel sedere, capito? A prescindere, basici. Ok. Sì, dedicato ai tifosi del Napoli e della Fiorentina, un vino per dimenticare invece. Allora, un vino per dimenticare. Allora, perché sai che ci sono i vini da meditazione, no? Sì. Quelli che vengono chiamati da meditazione. Allora, non perché apriamo quel vino dobbiamo meditare, sì. No? Perché secondo me poi a qualcuno prende male. Vengono chiamati così perché sono quei vini che anche da soli si bastano, come tante persone che secondo me da sole si bastano. Sì. Ma nel caso del vino perché riempiono, tipo un amarone, no? Cioè io alle volte lo apro perché quel vino anche da solo mi accompagna una serata. Non ho bisogno di preparare un grande piatto, anche prendere un pezzettino di formaggio da qualche parte e quel vino lì. No, ma mi serve uno da tramvata proprio. Da tramvata che dice: oh, domani mi sveglio e voglio resettare il cervello. Brava, allora, su quella roba lì, non lo so, ti posso dire, vai su. Allora, o su dei vini molto giovani, e quindi delle quali, come direi, una gran sete di farti passare quel momento, perché quel momento deve essere dimenticato. Quindi dei vini molto giovani e una bottiglia forse, magari non basta, ma mi raccomando, tutto quello che sto dicendo si fa a casa, dove poi non si deve prendere la macchina, uscire, ma si fa nella tranquillità domestica. Oh, altrimenti facciamo il contrario. Un vino con un'alta gradazione alcolica, di cui una bottiglia va bene se poi non sei abituato, magari hai quella sensazione un po' così, un po' bohemien, no? Di rilassamento. E il giorno dopo, sicuramente, se poi soprattutto e deve essere un vino buono, il giorno dopo non avrai tracce né di mal di testa, nulla, ma soltanto come dire: ok, la storia di ieri dimenticata, bottiglia nella raccolta del vetro e si va avanti con altre cose da fare. E anche tracce di ricordo. Marco. Sì, buongiorno Carlo, a lei Pardo e la sua gradita ospite. Che beve lei? Io la Morone lo gradisco molto volentieri, anche se sono piemontese. Vabbè, io ben corposo, si vede bene. Sì, come no? Ti senti, Riccardo, io voglio parlare del Milan. Il dottor Galliani, che va in televisione tutte le volte che lo intervistano, risponde: ma noi siamo la squadra più titolata al mondo, in questi 25 anni abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere. D'accordo, ma se io fossi un giornalista le risponderei: ma appunto perché siete la squadra che ha vinto di più, che non può permettersi di fare queste figuracce per prendere 4 gol dal Parma, 4 dall'Atletico, 4 dal Sassuolo. Io voglio dire, se avessero tenuto Thiago Silva e non avessero preso quei 4 o 5 mezze figure, ho capito, che adesso, non è che Thiago Silva l'ha regalato via, Thiago Silva l'hanno venduto perché hanno preso un sacco di soldi, e stesso discorso vale per Ibrahimovic. Che ne pensi, Valentina? Ma l'hanno sicuramente indebolito questo Milan, insomma, si è visto, eccetera, però devi sempre bilanciare, come dici tu. Il discorso ovvio è stato fatto per le casse, ma ad oggi, insomma, la crisi si sente ovunque, quindi il Milan avrà fatto quella politica. A me dispiace, io lo dico sinceramente, non tifo Milan, è ovvio, tifo altro, e mi dispiace vedere il Milan in questa situazione, perché in effetti è un club glorioso, però sono sicura che si riprenderà al più presto. Ci vuole un po' di innovazione all'interno di quella, e anche un po' di chiarezza, secondo me, a livello dirigenziale. Attenti alle innovazioni, perché un'altra potrebbe arrivare a stretto giro di posta. Pierluigi, tu ci credi, continui a credere al fatto che Seedorf si giochi tutto in 3 giorni con Fiorentina e Lazio? Io credo che il Milan deve resettare, deve mettere un punto, deve ripartire. Quindi ha bisogno di una cassa, serve, del vino di prima. Forse serve il vino, quello lì da meditazione, quello per dimenticare. No, nel senso che, secondo me, in questi anni il Milan ha provato con alterni successi a continuare il mito, a prolungare il mito anche senza soldi, con una serie di iniziative appunto estemporanee, i parametri zero, qualche grande colpo come Ibrahimovic, è riuscito a fare delle cose importanti come il famoso scudetto di Allegri, però poi alla fine i conti non tornano, quindi a questo punto sarebbe, secondo me, più sano dire che non c'è più il budget di una volta, che si fa un progetto diverso, si punta sui giovani e fra 5 anni si torna a essere competitivi per altri 10 anni. Ripeto, non c'è tifoso in Italia che abbia goduto così tanto come il tifoso del Milan, quindi è un discorso che, secondo me, di animazione, se lo fai con chiarezza, i tifosi intelligenti lo accettano. Io credo che il Milan sia, te l'ho detto molte volte, sia un po' prigioniero invece della sua immagine, cioè una politica di questo tipo non la può fare, ma perché è prigioniero della sua immagine, però, quindi non può permettersi. La forza di un grande club è anche questa, secondo me, no? Sì, per United lo ricordiamo, perché ad esempio di scuola ha aspettato 2 anni e mezzo Ferguson e ha aspettato che quella generazione incredibile che poi ha fatto lo stadio per 3 anni maturasse. Sì, però lo United però adesso a gennaio ha calato un pozzo di soldi e ha preso Mata. Poi ha ragione o ha torto, secondo me più ha torto che ha ragione, però li ha messo, cioè fanno vedere comunque che va bene, c'è da ricostruire, va bene i giovani, però ci sono anche i soldi per comprare giocatori diversi. Pierluigi, ti saluto. Pierluigi, ci sei? Oh, ci sei? No. Niente. Ma ti pare? Ma ti pare tutti i giorni sta lì, mi tocca fa. Ma regalategli un telefono buono. Ma ci abbiamo provato in tutte le maniere, ma non, secondo ma me è lui che si va a nascondere. Cos'ha quello quello che va a manovella? Sì. Quello con le scimmiette. Hai presente quello? Sì. Sì. Allora, Valentina, dimmi qualcosa che nessuno sa sul tuo allenatore cult, Antonio Conte. No, non dirò mai nulla. No, non ci sono segreti su Antonio Conte, è la persona più... Che ne so, un aneddoto. No, più solare del mondo. No, più solare del mondo? Perché no? È solare, sì. Sa quelli non solari come sono? No, lo so, guarda, io li dico sempre anche con i miei amici romanisti, e questa cosa è una cosa che a me farebbe tanto piacere vederlo sulla panchina della Roma. Adesso ti dico proprio, è strippatissima. Però guarda, io ho una stima profonda per Antonio, perché è tutto, è al 100%. Cioè, lui è stato calciatore, innanzitutto una cosa fondamentale secondo me per un allenatore, perché devi saper vivere lo spogliatoio, lo devi aver vissuto da calciatore, adesso lo vivi da allenatore, devi sapere qual è la mentalità di quelli che poi stanno seduti in panchina. Io Antonio lo vedo, ecco, a 360 gradi, è un soldato, cioè, anzi, cioè, un tenente, un colonnello, come lo vogliamo definire, ai gradi più alti, non ti lascia spazio per nulla, è rigidissimo, però poi i risultati si vedono. Cioè, che vogliamo dire a questa Juventus? Nulla. Di vincere qualcosa in Europa, ad esempio. Arriverà, manca. secondo me arriverà. Arriverà forse con degli innesti nuovi. Antonio, vabbè, sì. Ma già quest'anno, cioè, Europa League la può vincere, no? Secondo me a quella deve puntare, anche perché lo stesso Conte, l'ho detto molte volte, ha bisogno di queste stellette europee da mettere sulla giunta. Sì, no, le vuole e le desidera fortemente, anche perché altro. Insomma, ha raggiunto tanti obiettivi con la sua Juve tanto amata e manca solo quello. Ragazzi, avete da fare? State con me? Sì. Dopo abbiamo ancora giornale radio, poi abbiamo un'altra cena. Vi porto a New York dopo. Wow. Viva New York. Perché no? Ok, allora dopo il GR tutti a New York. Tutti convocati. Torniamo, puntata cult oggi, come ho detto qui con me, a Dua Villa, che ci sta sdottorando su vini e dintorni, e Valentina Mezzaroma, che invece sta sdottorando di pallone, perché è quello che preferisce. Sì, purtroppo sì. Io preferisco il vino al pallone, ma comunque. La malattia del calcio, ragazzi. Maurizio Genova, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Carlo, due cose. Una, sì, per la signora o signorina Mezzaroma, sì, direi che Conte è come il sergente Hartman in Full Metal Jacket. Mm. Mm. Ti piace questo, è una cosa di questo sì, genere, vero? Più o meno. Sì, sì. Spero che non faccia la fine di Hartman. Dunque, per quanto riguarda Carlo, e non siamo neanche in Carlo, Vietnam, non però trattiamo Pardo come, non trattiamo Pardo come Cruciani tratta Parento, per cioè? Cortesia, poveraccio, cioè, dai, anche perché Pardo è superiore a Parento. Ma in che senso? Scusate. No, prego. Perché no, sento un ritorno strano. E un'altra cosa ancora, Cassano ha giocato alla grande, meravigliosamente, a Bari, Genova, Parma. Mm. Sarà un motivo, no? Certo che c'è, perché quella è la sua dimensione. Semplicemente perché quella è la sua dimensione. Ha steccato invece a Roma, a Madrid e a Milano, da tutte e due le parti. Ma perché? Perché quella è la sua dimensione. Ognuno ne ha una, quella di Cassano. La dimensione dello sconfinato talento di Cassano è quella. Bello, intelligente, capisce di calcio. Una prossima vita voglio essere compagno di Valentina Mezzaroma, Giacomo Bianco. Vabbè, Valentina, è un plebiscito, cioè a me gli insulti e a te ste cose. E che vuoi? Mettiti la parrucca bionda. come promesso, vi porto a New York. Welcome back to Madison Square Garden, where they are introducing Phil Jackson, the new next president. Non so se al loro signore piace il basket, Valentina? Abbastanza. Siena c'è la mezzana, dai, ragazzi, ha praticamente vinto tutto. Adua? Io più la pallavolo. Più la pallavolo? Sì. Basket NBA, Phil Jackson, Chicago Bulls, Michael Jordan. Sì, no. Quella roba lì, sì. È uno spettacolo da vedere. I Globetrotter erano, capito, roba veramente anni 80, che me li ricordo. Però sai, sì, io su Instagram sono Globetrotter Gourmet, non a caso. Mi sono ispirata da lì e dai viaggiatori gourmet del mondo, sì. Io ho Simone Sandri da New York, la mia voce a New York. Ciao Simone. Buongiorno Carlo. Cos'hai bevuto oggi? Qui stiamo parlando di vino. Io sono un grandissimo amante dei vini del Colline Novaresi, per cui essendo novarese so che sono di nicchia. Esatto, sono un po' di nicchia, ottimo nebbiolo, molto underrated e di nicchia, però a noi piace. Bello parlarne anche di queste piccole realtà. Grande. Li scegliamo apposta, bravi, li scegliamo così. Poi Simone qui è di casa da 15 anni. Senti, Phil Jackson, Madison Square Garden, l'applauso della gente, mi sembra corrente elettrica su New York City. La mela si è accesa. Assolutamente, il buzz che c'è qua per Phil Jackson, io sinceramente non me lo ricordo neanche quando è arrivato Melo, c'è stato questo buzz, questa voglia un po' di questa idea che finalmente questo progetto Knicks che doveva iniziare anni fa, ma che non è mai iniziato, può veramente avere finalmente delle solide basi con Phil Jackson. però non dimentichiamo che si porta con sé anche tantissimi punti interrogativi. A 68 anni si cimenta in una professione, tra virgolette, che per lui è completamente nuova. Dovrà cambiare anche il suo modo di fare, perché è stato da allenatore geniale, straordinario, è sempre stato ai margini del cosiddetto day by day routine, cioè non ha mai voluto avere a che fare con gli agenti, con i dirigenti, cosa che dovrà fare costantemente adesso, per cui ci sono tanti punti interrogativi. Una cosa è sicura, c'è un entusiasmo spaziale adesso al Garden per l'arrivo di Jack. Ebbene, immagino, ma si è visto anche da quelle immagini, no? Tutti ad applaudirlo, lui si alza in piedi, sventola la manina. Poi vediamo cosa combina questa squadra, che è il grande buco nero della pallacanestro americana. Un sacco di soldi, un sacco di delusioni, ma anche moltissime polemiche, mai niente che funzioni come si deve, insomma. Una specie di Inter ante litteram. Sì, il problema è, parte tutto dalla proprietà, dalla proprietà di Jim Dolan, che è un accentratore ed è uno che ha una filosofia, sul lavoro molto particolare. Non vuole che nessuno lo contraddica, praticamente, invece di circondarsi di collaboratori che possano proporre idee, lui vuole più yes man. E adesso per questo che il matrimonio con Phil Jackson si pronuncia burrascoso, perché se veramente Phil Jackson ha la carta bianca, è sì, senza dubbio diritto di licenzia al presidente. Cioè il primo da licenziare è il proprietario, quindi sarebbe paradossalmente così. Certo, l'idea sarebbe, ovviamente non si può diventare un proprietario, però l'idea se assumi Phil Jackson vuol dire che da proprietario ti decidi, che permette a Phil Jackson di fare quello che vuole, di cambiare anche la filosofia, la filosofia un po' delle PR, dei Knicks, che sono quelli di non dire assolutamente nulla, non far trapelare mai nulla, di controllare sempre il messaggio che esce dallo spogliatoio, comunque dalla dirigenza, anche delle scelte tecniche di darle ovviamente certo, totalmente in mano a Jackson. Dovrà tagliare parecchie teste a New York per rendere quel disastro una squadra vincente, quindi credo il lavoro sarà lungo. Good luck. Buona fortuna. Sì, è molto zen, perché per stare lì ci vuole molto zen. Grande maestro zen, avrà lavoro da fare. Regala un po' di libri in giro, fa un po' di pubbliche relazioni, spende tutto il suo carisma, eccetera eccetera eccetera, ma lì ce ne vuole. Simone, grazie, un abbraccio. Grazie a te. Bye. Ciao. Ti piace New York? Moltissimo. Adon? Molto. Che vino associeresti a questa città? A New York ne associerei due. Associerei il Lambrusco? Assolutamente sì, perché noi abbiamo una concezione un po' sbagliata del Lambrusco, perché pensiamo veramente al Lambruscone, quello nei fiaschi, sì, quello di non qualità, quello magari che veniva anche messo nei tappa, oppure addirittura quello che negli anni '80 partiva dall'Italia nei container, andava in America e veniva messo nelle lattine e venduto in lattina come se fosse una bibita gassata a 5 gradi e mezzo. Che ancora adesso, se vai a vedere su YouTube, ci sono ancora lo slogan, che era Jacobazzi and Go, che potevi bere Lambrusco bianco o rosso. Invece no, le aziende del Lambrusco stanno facendo dei prodotti unici, meravigliosi, con una schiuma anche molto elegante, di grande freschezza, fruttati. Loro sono un po' quello che vanno velocemente, fanno con una velocità estrema tutto. La loro giornata sembra che io quando vado lì non ce la faccio, non sono i loro passi, no? Sembra che la loro giornata sia di 48 ore, io invece in 24 non ce la faccio. Non so, a me stressa di più Milano. A New York, okay, io mi rilasso molto. Bene. A Milano faccio davvero fatica. Ma quanto è bella Valentina Mezzaroma, berrei con lei un po' di lacrima di morro d'alba. Wow. Alessandro, te sopporto più, Valentina. Valentina ha una voce radiofonica, io la propongo. Vabbè. Mi vuoi in tandem? Facciamo. Ma è chiaro. Anzi, quasi quasi ti lascio la baracca per un po' e io andiamo a New York. Andiamo a fare il presidente del Sieno a New York. Non lo so, vediamo. Adua. Lorenzo. Eccoci qua. Dica. Ieri sentivo la trasmissione, lei e Bardo sostenevate che la Juventus delle tre italiane impegnate era quella che avesse meno dimensione europea. No, e adesso come conferma, la mettiamo? No, come vuole metterla? Che è anche la più forte delle tre, volendo guardare. No, la storia del campionato racconta chiaramente Fiorentina-Juventus, è vero che era una partita europea, ma tra due squadre italiane, e la distanza in classifica la conosce anche lei. Ma non parlavo di più forte non ho detto quello, ho detto semplicemente che le altre due mi sembrava fossero molto vocate alla Coppa, avevano una faccia da Coppa, sono squadre con un gioco un po' più europeo rispetto alla Juventus. È chiaro che la Juventus era più forte delle tre ed è anche l'unica che è rimasta in vita, e speriamo che ci porti nel suo stadio il 14 di maggio a giocare sta benedetta finale. Ripeto, secondo me la Juventus ha un dannato bisogno di quella Coppa e di una dimensione europea. Un'ultima cosa, perché ho ancora niente, 10 secondi, un vino per Valentino Mezzaroma. Che vino è lei? Allora, lei è un grande montepulciano d'Abruzzo. Ah, grazie. Piace tantissimo. Grazie a Dua Villa, vino rosso Tacco 12, la biografia di Valentino Mezzaroma la leggeremo tra poco. Sì. No? Tutto sul Siena, tutto, la Roma, tutto, Antonio tutto, Conte, tutto, tutto, tutto, out in totale. Tutti i mister, tutto. Grazie. Grazie a te, Carlo. Grazie. Oggi è venerdì, ci sentiamo lunedì, direi, alle 2. Scusate, forza Siena per stasera. Ciao a tutti. Tommaso Ghirardi, presidente del Parma, buongiorno. Buongiorno. L'Europa League, che cos'è? Un pensiero, un'ossessione? Ah, io l'ho sempre definito un sogno, perché oggi per una squadra medio piccola arrivare in Europa è un miraggio, è appunto proprio un sogno. È chiaro che non ne faremo una malattia se non ci riusciremo, perché la cosa più importante è dare continuità alla società, avere i conti a posto, o meglio, averli sempre più a posto. Buonasera Paparesta, come va? Buonasera, benvenuti a Bari. Abbiamo provveduto a farvi trovare una giornata meravigliosa. Sì, il campione più difficile da arbitrare, la corriera. Per esempio con Vieri c'era, ogni volta che arbitravo Vieri all'inizio era un problema, perché ero preoccupatissimo, perché era proprio un burbero. Poi alla fine, anzi, era il migliore amico, nel senso che mi aiutava anche quando sbagliavo, mi copriva con gli altri. Ronaldinho, per esempio, nei tempi d'oro era un pericolo, perché temevi che quando lo affrontavano non trovavano la palla, lo rabellavano, e quindi il timore era anche quello. Giacomo Agostini. Ciao Giacomo, buongiorno. Ciao a tutti voi. Quindi direi che Lorenzo è un bel martello, è uno che ormai ha tanta esperienza anche lui. Certo, anche il ragazzino ha un anno in più di esperienza, quindi quest'anno farà le cose dell'anno scorso, però con più tranquillità, perché naturalmente ha acquisito esperienza, tattica di gara, sa guidare la MotoGP, l'anno scorso era il primo anno, ha meravigliato tutti. Soprattutto... però non credo che come velocità eccetera migliorerà come sicurezza, come tecnica di guida. Viva il carboidrato, sempre. Concludo ricordandovi che la nostra trasmissione va in onda alla stessa ora ogni settimana, lo stesso giorno, la stessa ora, la stessa rete. Bello, eh?